Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, non ne vogliono sapere le borse mondiali, nonostante l'incontro dei G20, molto commentato su tutti i giornali, incontro importantissimo, e nonostante le dichiarazioni, devo dire, più di cornice e di quadro che di misure concrete, insomma la necessità di organismi sovranazionali che regolino meglio quelli che sono i flussi finanziari, non ci possono essere soggetti al di fuori del controllo delle leggi, ma anche se si trattasse di organismi come il Fondo Monetario o altri, occorre trovare una soluzione per quello che riguarda l'incapacità poi di controllare i soggetti e i loro investimenti. Queste le dichiarazioni che abbiamo letto, un nuovo ruolo anche del comitato che in questo momento è sulla stabilità finanziaria, diretto da o presieduto da Mario Draghi, il nostro governatore della Banca d'Italia. Dicevo, nonostante l'impegno e le rassicurazioni arrivate dal G20, le borse non ne vogliono sapere, perché perde il 3% adesso Parigi, il 3,31% Francoforte, il 3,3% Milano, Londra meno 2,6%, l'America va un po' meglio, meno 1,8% sul Dow Jones e meno 1,4% sul Nasdaq. Questo nonostante questa mattina l'Asia avesse tentato una reazione, soprattutto in Giappone, visto che il Giappone oggi si è aggiunto alla lista dei paesi tecnicamente entrati in recessione, dopo la Germania e l'Italia, adesso anche il Giappone. Avremo anche un piccolo approfondimento su questo, non capitava dal 2001 comunque in Giappone. Molti di voi ci chiedono: ma perché si dice recessione tecnica? Sembra quasi volerla edulcorare. No, ecco, per due trimestri di fila prendi il segno meno, tecnicamente sei in recessione. Si dice tecnica perché delle volte è un meno 0,1, meno 0,2, di fatto sarebbe una stagnazione economica, e poi di recessione, di un anno in recessione si potrebbe parlare a livello così più corretto quando si è compiuto un intero ciclo, quattro trimestri di recessione. A quel punto si è fatto un anno in recessione. Tecnicamente, da un punto di vista quindi statistico e tecnico, lo si è già dopo due trimestri di fila. Dicevo, il Giappone si è aggiunto oggi alla lista dei paesi che sono già entrati tecnicamente in recessione, meno 0,4% il prodotto interno lordo nel trimestre luglio-settembre, ed è il secondo trimestre consecutivo, questo soprattutto a causa del taglio delle spese e degli investimenti da parte delle imprese, meno 6,7% il taglio degli investimenti delle imprese nipponiche rispetto all'anno prima e quasi il 2% rispetto al trimestre precedente. E nonostante anche un dato sulla produzione industriale americana risultata in crescita più delle attese, nettamente più delle attese, più 1,3% ad ottobre contro un più 0,2%, ripeto, le borse restano pesanti, in America poi continuano a essere pesanti anche i titoli del settore automobilistico. Resta da capire se si tratti degli ultimi colpi o comunque dei colpi finali dei mercati, e se anche il dato di oggi sulla produzione industriale non lasci sperare di aver raggiunto il fondo di questo ciclo, e per cui nessuno prevede una ripresa e una crescita economica nel 2009, ma perlomeno uscire dalle secche, dalla discesa, oppure se invece si sia ancora, come dicono alcuni, a metà del guado. Parleremo anche delle iniziative annunciate dal nostro governo proprio nel corso del vertice dei G20 a Washington, 80 miliardi. Adesso si cerca di capire come e dove saranno distribuiti questi 80 miliardi di euro, di cui 40 sono fondi in compartecipazione europea, lo dico per la precisione. Ancora avremo in apertura, sentiremo le dichiarazioni di Barack Obama in tema di salvataggio del settore delle quattro ruote americano, nonostante la diffidenza e la freddezza dell'attuale amministrazione, quella uscente, quella di Bush. Barack Obama oggi ha ribadito che vuole andare avanti nel piano di salvataggio del settore auto, sarebbe un danno troppo alto per l'industria americana si calcola complessivamente che il settore auto in America abbia 3 milioni di occupati indotto, incluso Parmalat, ricordava il nostro GR oggi a deposizione di Callisto Tanzi, i casi della storia, quella che per alcuni è stata la madre, il paradigma di quello che poi è avvenuto su scala mondiale, cioè la crisi Parmalat, il crack Parmalat, in cui tutti i controlli saltarono per aria, nessuno sapeva e tutti certificavano, però certificavano i bilanci, certificavano il rating, davano giudizi, con la Bank of America che scopre all'ultimo di non avere 5 miliardi di dollari in conto, ma non dice niente fino all'ultimo, insomma tutto quel sistema che saltò di controlli incrociati, poi l'abbiamo rivisto con tutti i distinguo del caso anche in questa crisi, ed è una coincidenza che proprio oggi Callisto Tanzi parli a Milano in tribunale. Infine l'Alitalia, perché mentre si fa sempre più forte l'ipotesi che il partner scelto dalla CAI sarà Air France, continuano a essere cancellati i voli, oltre 100 oggi, ma continua anche il braccio di ferro con dichiarazioni sia sul fronte sindacale che sul fronte del commissario straordinario, ossia Fantozzi. 349-238-6666 per i vostri sms. No, il gufo oggi non lo mandiamo perché non ci sono elementi per... Anzi, la produzione industriale americana potrebbe quasi essere un gallo che un gufo, ma non vogliamo eccedere in ottimismo e quindi non mandiamo né uno né l'altro. Invece quello che facciamo, ascoltiamo le notizie in breve. Il petrolio nel frattempo è tornato sopra i 58 dollari al barile, mentre l'euro è debole, è a 1,26,9 nei confronti del dollaro, sotto il livello di 1,28, ma poca cosa, no? È a 122 l'euro nei confronti dello yen. Una buona notizia oggi riguarda l'Euribor, buona notizia parzialmente, ossia l'Euribor, il tasso interbancario su cui poi si applica lo spread che le banche mettono quando prestano soldi alla clientela o alle imprese, è sceso ulteriormente a un livello che non si vedeva dal 5 luglio del 2007. È sceso l'Euribor al 4,2%, praticamente è sceso a livello precedente lo scoppio della crisi, visto che tutti ormai datano lo scoppio della crisi dei mutui subprime ad agosto del 2007. Il punto è, dicevo, una buona notizia parzialmente, perché se questo calo dell'Euribor le banche poi non lo trasferiscono nel tasso che effettivamente praticano la clientela, ma se lo tengono in pancia, quindi costa meno avere denaro, ma loro lo fanno pagare lo stesso livello, è chiaro che c'è un guadagno per la banca, ma non per l'economia reale, intesa come cittadini e imprese. Niente più super bonus per i manager di UBS e per quelli di Goldman Sachs. E alcuni potrebbero anche dire, e vorrei anche vedere, visto che UBS ha perso fino ad ora 40 miliardi di dollari come svalutazioni conseguenti agli investimenti fatti in prodotti poi rivelatisi tossici, e Goldman Sachs ha archiviato già perdite per 5 miliardi di dollari. Dicevo, nessun super bonus, nessun membro del consiglio di amministrazione in UBS, compreso il presidente Peter Kurer, riceverà il consueto assegno di fine anno. E tra l'altro nel futuro sarà studiato un nuovo sistema di pagamento correlato alla creazione di valore, non più all'andamento del titolo. Allo stesso modo alla Goldman Sachs, l'anno scorso, cioè in piena crisi già scoppiata, i bonus che Goldman Sachs ha dato ai suoi manager avevano superato ogni record di Wall Street. Il solo amministratore delegato Blankfein l'anno scorso si era beccato un bonus, cioè oltre allo stipendio, un bonus da 70 milioni di dollari. Questo per poi scoprire che la banca ha perso 40 miliardi di dollari per le operazioni effettuate. Quest'anno almeno la decenza tardi ma è salva, sia l'amministratore delegato che altri 6 top manager hanno deciso di rinunciare ai premi finali. E mentre c'è chi come Lloyd Blankfein o il presidente di UBS Peter Kurer rinunciano a bonus milionari, c'è chi rinuncia al posto di lavoro tout court, perché Citigroup ha annunciato che taglierà 50.000 posti di lavoro e il 20% dei propri costi, praticamente taglierà il 14% dell'organico del gruppo, 14 dipendenti su 100 se ne andranno a casa. In questo caso, diciamo, non è che viene meno solo il bonus, viene meno proprio il salario. Ancora la crisi, il suo trasferirsi sull'economia reale, la peggior crisi del settore auto la sta attraversando l'America, è la peggiore dagli ultimi 25 anni. General Motors è a un passo dal Chapter 11, ossia dal ricorso all'amministrazione controllata, dalla dichiarazione di bancarotta. Male, molto delicata la situazione anche su Ford e Chrysler. I tre giganti hanno chiesto al Congresso americano un pacchetto d'aiuti da 50 miliardi di dollari. Le vendite americane di auto, alcuni dicono anche perché c'è un problema industriale, non solo finanziario, nelle auto americane. Comunque, le vendite di auto in America hanno toccato i livelli del 1980. E voi direte, vabbè, no, nel 1980 l'America aveva 50 milioni di abitanti in meno rispetto ad ora. E il neo presidente Obama, o quello che è il presidente designato, come si chiama in gergo americano, sembra intenzionato a varare un piano da 25 miliardi di dollari che comprenderebbe stanziamenti a favore della ricerca nel campo delle auto ibride, quindi quelle meno inquinanti. E Obama ha ribadito oggi in un'intervista alla CBS che la circostanza è eccezionale, questi aiuti saranno eccezionali perché comunque la bancarotta del settore auto sarebbe fatale. For the auto industry to completely collapse. Un fallimento dell'industria automobilistica sarebbe una catastrofe in questa situazione, non soltanto per le famiglie. Le conseguenze per l'economia sarebbero gravi. Sono quindi favorevole a un piano di assistenza a favore del settore dell'auto, ma ritengo che non debba essere un assegno in bianco. Spero che nel corso della prossima settimana i colloqui tra Congresso e Casa Bianca si concentrino sul fornire assistenza al settore, ma l'aiuto deve essere sottoposto all'approvazione di un piano a lungo termine che riguardi i dipendenti, i dirigenti, i fornitori e gli azionisti. Occorre un prestito che porti da qualche parte e non da nessuna parte. Nella situazione economica attuale è impensabile che General Motors possa rimettersi in piedi da sola. Quello che dobbiamo fare è riconoscere che stiamo attraversando una fase eccezionale. Le banche non fanno più credito, neanche alle aziende che vanno bene, ancor meno a quelle che vanno male. E in queste condizioni le opzioni abituali non sono forse più possibili. The usual options may not be available. Questa è un'indicazione importante, già chiarita da Barack Obama, ma insomma le circostanze sono eccezionali, le banche non prestano più soldi, dobbiamo agire in maniera eccezionale. Poi sarà da capire, ma questo lo sapremo solo fra un po' di mesi, quanto questa situazione eccezionale impedirà o potrebbe impedire a Obama di iniziare subito quella trasformazione del sistema di welfare americano, in primo luogo la sanità, ma non solo, che era parte del suo programma. I soldi anche in America non sono infiniti, e se tu spendi 50 miliardi o 25 miliardi come vorrebbe Obama per le banche, è chiaro che per le auto e il settore automobilistico, oltre agli 800 miliardi messi in piedi per il settore bancario, è chiaro che poi ti vengono meno i soldi per altre politiche. Tra l'altro Obama ha anche aggiunto che lui vuole restituire un senso di equilibrio alle regole che sovrintendono i mercati, ma non sta pensando a un nuovo New Deal, quello che fece parzialmente uscire l'America dalla crisi del 29, quello di Roosevelt. Anche il governo di Berlino sta pensando di soccorrere non solo la Opel, ma tutto il settore automobilistico della Germania. La notizia è anche oggi sui giornali, il cancelliere Angela Merkel ha convocato una riunione di crisi. E tra l'altro l'Opel è in una situazione difficile anche perché la controllata tedesca dell'americana General Motors, che a sua volta è sull'orlo del tracollo. Tra l'altro l'industria automobilistica tedesca, non la singola Opel, vale 750.000 dipendenti, quindi è un altro settore chiave anche in Germania. Però il ministro delle finanze tedesco oggi, Per Steinbrück, ha escluso la possibilità di aiuti statali generalizzati per il settore automobilistico. Lo ha fatto prima dell'incontro tra il governo e i vertici della Opel. Il titolo Volkswagen invece oggi in Germania è arrivato a perdere oltre il 10%. Ad ottobre le vendite hanno segnato un meno 5 per cento. E ancora in Francia, questa volta la crisi sta affossando anche la Renault, perché ha dovuto tagliare la produzione del 25%, praticamente un quarto, solo nell'ultimo trimestre. Parleremo invece alle 18.10 del piano annunciato dal governo appunto a Washington, 80 miliardi di euro, da quello che si è capito 40 miliardi da un miglior utilizzo di fondi UE già previsti, 16 miliardi da uno sblocco delle risorse per infrastrutture, 10 miliardi da investimenti di autostrade per l'Italia e 14 miliardi di misure a sostegno di banche, imprese e famiglie. Alcuni di questi, poi faremo il calcolo, erano soldi già previsti, che non sono tutti nuovi soldi che vengono buttati sul piatto, si tratta anche di utilizzarli secondo il governo in maniera diversa e immaginiamo migliore. Adesso però iniziamo anche di Parmalat, parleremo tra un attimo, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Partiamo da un tema nuovo, vedo chi già ne scrive, ossia come sta andando il braccio di ferro all'Italia. Ultima risposta però agli sms, non c'è una legge che obbliga le banche a abbassare i tassi praticati dalla clientela quando cala l'Euribor? No, non c'è, perché lo spread è anche cioè la differenza, quello che ci aggiungono in più le banche è anche un elemento di mercato, di concorrenza, c'è la banca che può avere uno spread più alto, quella che ce lo può avere più basso, dovrebbe essere così perlomeno, e questo fa parte del libero mercato. Certo che da più parti si sta pensando anche a un'iniziativa di carattere politico, perché è ovvio che non è pensabile che la BCE, la Banca Centrale Europea, abbassi i tassi di un punto percentuale in un mese e questo poi non si scarichi sulla clientela, di nuovo, imprese e cittadini con il mutuo. Se no, voglio dire che le abbassiamo a fare questi tassi. Comunque, l'Alitalia, raffica di voli cancellati anche oggi, Fiumicino già 70 i voli soppressi, soprattutto voli nazionali, oltre 50 voli soppressi a Linate e Malpensa, mentre a Fiumicino sono stati praticamente smaltiti oggi i bagagli rimasti a terra nei giorni scorsi, immagino con grande soddisfazione di chi era il proprietario. E le dichiarazioni di Augusto Fantozzi, intervenuto ieri alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa? Le riassumiamo in breve: i debiti sono per 2 miliardi e 300 milioni complessivamente, i debiti di all'Italia, e Fantozzi quindi ha chiarito: non è che devo recuperare solo i 300 milioni di euro che Bruxelles ha definito aiuti di Stato e che dobbiamo ridare allo Stato italiano, prima di quello c'è dell'altro. Io devo recuperare molto più di quei 300 milioni di euro, perché prima dei 300 del governo, che sono per legge postergati agli altri creditori, io ho quasi 2 miliardi di euro di altri creditori ordinari. È evidente che se lei mi chiede li ha tutti, risposta no. Io ne ho una parte, negozierò con CAI, venderò tutto quello che residua. Tornando ai 300 milioni di euro, siccome li ha messi in fondo lei, giustamente, non c'è il rischio che proprio perché sono gli ultimi a essere risarciti, alla fine non sia possibile per l'Italia attuale risarcirli e quindi diventino un onere sociale? Sostanzialmente li paghiamo noi tutti? Se così sarà, è certo che sì. E per quello che riguarda l'autonomia, un tema su cui alcuni di voi sorridono, perché si dice sempre l'Italia ormai ha finito i soldi, il commissario Augusto Fantozzi ha chiarito: oltre il primo dicembre non è possibile andare. Non è possibile rinviare oltre il primo dicembre la partenza. Il che cosa significherà? Non significherà nulla dal punto di vista della sostanza, perché la tredicesima la avranno, gli stipendi li avranno, può significare qualche leggero ritardo nel tempo, nella procedura, perché nessuno poi può discutere i loro diritti assoluti e che nessuno contesta, i soldi ci sono ad essere pagati. I dipendenti all'Italia sanno perfettamente che si farà tutto il possibile perché loro soffrano il meno possibile, ma me lo faccia dire. Prego. Vorrei anche pregarli, anzi invitarli, tutti, ad avere anche lo stesso rispetto degli utenti. Allora, vedo che c'è chi si lamenta che parliamo dell'Italia, ma è un tema che spesso tocchiamo. Noi cerchiamo di coprire le notizie del giorno, se all'Italia purtroppo è tornata ad essere una notizia nonostante la chiusura dell'accordo e l'offerta della CAI, noi dobbiamo occuparcene. Mi rendo conto che sia un tema che ormai ci trasciniamo da settembre, mi rendo anche conto che la battuta sull'argomento nuovo l'ho già fatta, non so più che cosa dire, ma invece andiamo avanti con le dichiarazioni del commissario straordinario Fantozzi, il quale ha detto attenzione, abbiamo spedito 17.000 lettere di cassa integrazione, per ora è una cassa integrazione a rotazione per tutti i dipendenti, ma bisogna evitare tra l'altro che collassi all'improvviso il sistema dei trasporti aerei nazionali per una causa minima, per cui magari qualche volo viene fermato per evitare il collasso. Su questa decisione oggi è intervenuto il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, quindi l'autorità che controlla il traffico aereo, dice proprio sul fatto che alcuni voli all'Italia possono essere tenuti a terra per evitare il collasso. Ascoltiamolo al microfono del nostro Alessio Maurizi e di Anna Migliorati durante il GR Extra Large di Radio 24. Da molto tempo ormai si procede ad una messa a terra degli aerei in considerazione del fatto che per Alitalia, per come è organizzato ormai da anni, volare costa piuttosto che un guadagno è una perdita, non è una cosa degli ultimi mesi. D'altra parte, dovendo pagare in anticipo i fornitori, i pezzi di ricambio e tutto quello che serve per poter volare, è evidente che si approfitta anche di una contrazione del mercato che è un po' stagionale, un po' purtroppo strutturale, per operare quei risparmi che consentano di consegnare all'acquirente una condizione non del tutto deteriorata. Allora, se oggi il ministro Matteoli dice non c'è più spazio per altri negoziati e aggiunge la scelta del partner non spetta al governo, vediamo di capire con Gianni Dragoni, la voce di Radio 24, quando parliamo di Alitalia. Buonasera Gianni. Buonasera. Se quanta forza c'è in queste indiscrezioni che la CAI sarebbe orientata a Air France più che a Lufthansa, ricordando anche le date, Gianni, cioè quando deve decidere, e ricordando che comunque l'attuale Alitalia fa già parte del consorzio dove c'è dentro anche Air France e KLM. Gianni. È quasi la soluzione naturale e alla fine, benché non sia ancora stata confermata ufficialmente, dovrebbe diventare anche la scelta effettiva, cioè lasciare che sia Air France il partner della nuova Alitalia, sia per non pagare la penale circa 100 milioni, 130 milioni di euro per rompere l'accordo esistente che dura dal 2001, sia per non avere i costi della separazione delle attività, perché con l'integrazione, soprattutto negli scali all'estero, ci sono delle operazioni congiunte nell'accettazione nel personale di scalo, e quindi se all'Italia andasse verso Lufthansa ci sarebbero anche dei costi della rompere l'integrazione e ricreare comunque. Questa pare essere la scelta, anche se non è stata ancora ufficializzata, potrebbe anche avvenire diversamente, ma sarebbe davvero un imprevisto e non credo che ciò avverrà. Tra l'altro Air France ha scelto come advisor per il pezzetto finale di questa trattativa finanziaria con la CAI Mediobanca, si fa notare che a parte l'autorevolezza di questa banca, gli azionisti, buona parte degli azionisti importanti di Mediobanca sono anche gli azionisti della CAI. C'è Colaninno, c'è il gruppo Ligresti, c'è la Pirelli con Marco Tronchetti Provera che è stato appena nominato vicepresidente di Mediobanca. Questo ovviamente non vuol dire che Mediobanca debba avallare per forza, ma è una coincidenza che può far pensare a molte cose. E che ci possa essere comunque, per i motivi che tu ricordavi, cioè la penale, in primo luogo la penale da pagare, perché la penale comunque la dovresti pagare, e poi anche avresti dei costi aggiuntivi perché dovresti sostituire le attività che stai integrando con Air France, dovresti sostituirle con qualche altro soggetto, per cui avresti due costi, uno di carattere legale e l'altro proprio di carattere operativo. Gianni Dragoni, un'ultima domanda, secondo te lo sciopero, perché è chiaro che poi se uno sente i sindacati il braccio di ferro è duro e andrà avanti, se guardiamo i dati sui voli cancellati, ecco perché trovo che sia una notizia ancora molto forte, siamo a 100 anche oggi, alcune analisi che abbiamo letto dicono invece va a scemare questo sciopero, perché nel frattempo la CAI procede, manda le chiamate dirette ai dipendenti, dice vuoi essere della partita oppure no. E quindi, allora, tu hai l'impressione che questo sciopero si continuerà a fare con poi quello generale già annunciato, mi sembra del 25 novembre, oppure che ormai sia più un rito, ma nessuno, nemmeno in ambito sindacale, si faccia qualche illusione di poter ottenere una riapertura dei colloqui? Penso che questa forma di agitazione selvaggia andrà avanti, almeno questa settimana è molto probabile. Non credo che però fermerà la direzione del convoglio, che è quello ormai di finire nelle braccia della CAI, quindi non so poi con le assunzioni, certamente l'ipotesi sbandierata da Colaninno di assumere piloti stranieri è molto improbabile, quindi la CAI non potrà fare a meno, se non di tutti, di quasi tutti i piloti dell'Alitalia, sia perché non c'è abbondanza di piloti sul mercato disponibili, sia perché i piloti della Ryanair ad esempio guidano degli aerei Boeing 737 che non sono nella flotta Alitalia e quindi non dovrebbero essere addestrati con dei costi prima. Gli Air One, questi aerei, ma Air One ha anche i suoi piloti, altrimenti resterebbero essi disoccupati. Terzo, i piloti delle altre compagnie volano di più, lavorano di più, ma guadagnano anche di più. Credo che si potrebbero trovare pochi piloti in giro, se non per periodi limitati, che potrebbero venire a infognarsi nella palude dell'Alitalia, perché poi c'è anche questo aspetto, no? Psicologico, certo. Non secondario. Certo. Quindi penso che l'agitazione proseguirà, ma alla fine CAI prenderà quello che è designato ad avere, cioè l'attività dell'Alitalia e di Air One. Allora, invece, così come continuiamo a dare gli aggiornamenti per quello che riguarda l'Italia, la cronaca, quello di cui non possiamo più parlare, questo lo dico anch'io chiaramente, è della polemica passata. Alcuni di voi ancora scrivono, ma la CAI, la compra all'Italia è stata valutata come Air One, ma in realtà il valore di mercato, di asset, cioè di beni, vale 3 volte di più, la CAI la compra per un prezzo basso. Ne abbiamo parlato molte volte. Se veramente i sindacati dei piloti, degli assistenti di volo ritengono che l'Alitalia, o ritenevano che l'Italia valesse così tanto, potevano accettare la prima offerta, quella di Air France, in cui venivano valutati di più. È inutile poi piangere dopo, quando hai detto di no a marzo e arrivi a settembre ancora con meno soldi in cassa. A quel punto chi si fa avanti ti compra, questa è sì la legge del mercato. Grazie Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come ha chiuso la borsa? -3,6 l'S&P MIB, -3% il MIBIT, -3,3 Parigi, -3,2 Francoforte, -2,3% Londra, -1,6 adesso l'America sul Dow Jones e l'1,4 sul Nasdaq. Il Giappone invece aveva chiuso positivo, nonostante anche il Giappone oggi si è entrato tecnicamente in recessione, secondo trimestre consecutivo di segno meno nel dato sul PIL, eppure il Nikkei aveva chiuso con un +0,7%. Chi va male oggi in Europa come settori? I bancari, e qui non c'è notizia. Da noi Intesa prende un'altra sberla dell'8,2%, Unicredit del 7,3%. Unicredit scende così a 1,84 €, Intesa San Paolo a 2,21 euro per azione. Male anche Fiat e del settore auto, abbiamo detto anche in apertura, in America Fiat -6,3%, Mediaset -5,5%, Prismian -5%, Monte dei Paschi -4,4% e poi anche il Banco Popolare perde il 3,8% e Mediolanum il 3,2%. C'è poi una pattuglia di titoli energetici, e mi riferisco a Eni che perde 4,2%, nonostante io ormai i report di Goldman Sachs non li leggerei quasi più, visto che non hanno saputo prevedere i loro danni. Però Goldman Sachs diceva comprate, buy, il petrolio oggi era in rialzo, per cui è abbastanza inspiegabile questo calo di Eni, e così come Enel perde il 2,2%. Tra i titoli segnaliamo anche Finmeccanica -3,8 a 8,8 euro per azione, e Prysmian meno 5%. Chi guadagna? Impregilo più 5,4, Tenaris più 3,1, A2A più 2,3, Bulgari più 1%, Alleanza più 0,86, come Buzzi Unicem, l'automatica mezzo punto percentuale di rialzo, lo 0,3% lo guadagna invece Fondiari Assai. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, i bancari italiani hanno subito le banche inglesi? Sì, sono andate male le banche in tutta Europa, ma peraltro anche negli Stati Uniti. Hanno aperto male anche sull'annuncio che Citigroup licenzierà 50.000 dipendenti. Quindi appunto è il settore più diciamo colpito dalle vendite. Il sottoindice Stock 600 del europeo ha perso il 4,7%. Quindi appunto anche a Milano, Intesa San Paolo, Unicredit hanno abbiamo visto i ribassi, che cali. Ma peraltro i ribassi sono poco consistenti rispetto ai cali che hanno accusato invece i concorrenti esteri, anche ad esempio la francese Dexia è arrivata a perdere oltre il 16%. Tra l'altro Citigroup ha annunciato che taglierà un lavoratore, un lavoratore, sì, 14 lavoratori su 100, cioè il 14% di tutta di tutti i dipendenti, 50.000 persone. Ricordavi cali ben più forti in altri titoli finanziari europei, però insomma anche oggi in Italia non si è scherzato. Che è successo invece al settore energetico, visto che il petrolio oggi era a 58 dollari, ma insomma non abbiamo visto cose particolari? No, peraltro, anzi, come hai detto tu, Goldman Sachs ha rivisto al rialzo anche la valutazione di Eni, indicando prezzi molto più alti rispetto agli attuali 17,29 euro. Le Eni hanno accelerato verso il basso soprattutto dopo aver violato la soglia dei 18 euro, probabilmente si tratta proprio di fondi che a questo punto vendono tutti i titoli che hanno un portafoglio. Eni è tra i titoli più presenti nei portafogli anche degli investitori istituzionali. Ancora, poi risponderò a alcune domande che stanno arrivando sul PIL. Ancora sui titoli invece, Monte dei Paschi mi sembra di capire che subisca anche i conti che sicuramente non hanno entusiasmato, diffusi venerdì, meno 4,4. Sì, Monte Paschi, infatti gli analisti sono rimasti abbastanza delusi, anche se in verità l'attività bancaria dell'istituto è cresciuta, d'altra parte l'utile è diminuito e poi ci si interroga soprattutto su quali banche ricorreranno agli aiuti statali e quali saranno appunto gli aiuti statali. Ancora si parla di bond, sembra che il Monte dei Paschi sia in prima fila visto che i ratios sono sotto quelli richiesti per legge. Ancora sui titoli, oggi vedo molta cattiveria negli sms, vabbè sarà l'inizio settimana, il lunedì è sempre un giorno difficile, andiamo avanti invece con i titoli perché vorrei capire su Telecom Italia come, visto che siamo praticamente, ci stiamo avvicinando alla data della presentazione del piano industriale che è il 2 dicembre, il titolo comunque continua a soffrire anche se non tantissimo, è un euro per azione, oddio. Meno 1,2%. Sì, le azioni comunque sono state tra le migliori a Piazza Affari. Hanno perso sul finale il 1,18, ma pochi minuti prima, ad esempio, anche del termine delle contrattazioni, arretravano dello 0,4% e comunque sono rimaste sopra la soglia di 1 euro. Questo per due motivazioni fondamentali. In primis è andato a retto abbastanza bene al ribasso tutto il comparto delle telecomunicazioni europee, uno dei settori che ha arginato diciamo le perdite in una giornata abbastanza nera. In secondo luogo si avvicina appunto la data della presentazione del piano industriale che si attende ormai da quasi un anno, dalla scorsa primavera, e che è stata fissata per il 2 dicembre. Poi la stampa di oggi ha diciamo rilanciato l'ipotesi che la compagnia potrebbe cedere una partecipazione nella rete e potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti a rilevare appunto tale partecipazione. Questo asset è valutato, dice sempre la stampa, tra i 29 e i 34 miliardi di euro e quindi questo potrebbe far fluire nelle casse di Telecom liquidità e quindi appunto migliorare la situazione del debito dell'azienda. Ecco, negativa oggi anche Parmalat, meno 1,9%, a 1,26 euro. Questa però è la nuova Parmalat, quella di Enrico Bondi. Allora, alcuni di voi lo ricorderanno molto bene, noi eravamo in diretta anche in quell'anno, dal novembre del 2003, con poi l'epilogo nel dicembre 2003, saltò per aria, vi fu anzi il più grosso crack fino allora visto in Europa. Il crack si chiamava Parmalat. Il 6 novembre 2003 la Consob chiede, dopo numerosi mesi di polemiche e tensioni, non si capiva perché la Parmalat, pur dicendo di avere 5 miliardi in un conto in America, continuasse a chiedere di raccogliere soldi con le obbligazioni. E comunque la Consob chiede finalmente chiarimenti sui 3 miliardi e mezzo di liquidità che la Parmalat sostiene di avere, anzi erano quasi 4 in un conto sulla Bank of America, il conto Bonlat. A quel punto praticamente iniziano a dimettersi il direttore finanziario Alberto Ferraris, Deloitte esprime dubbi sul fondo Epicurum, che era il fondo di circa 600 milioni di dollari presente in un paradiso fiscale. La Parmalat diceva che poteva vendere quel fondo per raccogliere liquidità. Non si capisce nulla su questo fondo Epicurum e praticamente c'è una liquidazione farsa che arriva il 27 novembre. Tutti attendono i soldi di Epicurum, quei 600 milioni di dollari, questi soldi non arrivano mai. E così il 9 dicembre il titolo viene sospeso per 3 giorni, Epicurum non liquida, Enrico Bondi diventa super consulente, Standard & Poor's declassa Parmalat prima a livello di spazzatura, poi a livello di rischio default. L'11 dicembre il titolo è riammesso in borsa, perde il 47% in un giorno. Il 17 dicembre 2003 il titolo ha perso già il 95%, vale 11 centesimi di euro per azione. Calisto Tanzi si dimette il 16 di dicembre, arriva Enrico Bondi come presidente e amministratore delegato, e poi il colpo di teatro, perché non solo questo fondo Epicurum non c'è mai stato, perlomeno non ha mai ridato i soldi alla Parmalat, ma nemmeno il conto vantato da Calisto Tanzi, Tonna e Ferraris di quasi 4 miliardi di dollari intestato alla controllata americana, la Bank of America si sveglia un po' tardi a nostro avviso e dice: ma guardate che questo conto a noi non risulta. E poi lì la polemica sul fax della Bank of America fatto col copia e incolla, alcuni ricorderanno anche questi elementi. Oggi, questa mattina al Tribunale di Milano, dichiarazioni spontanee dell'ex numero uno di Parmalat Calisto Tanzi, imputato per agiotaggio, ostacolo all'attività degli organi di vigilanza e concorso in falso dei revisori. Ha seguito le dichiarazioni al Tribunale di Milano la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, a te e al nostro ascoltatore. Abbiamo già detto in apertura, adesso non voglio tornare sul tema, che molti osservatori dicono che già dentro il crack della Parmalat c'erano tutti i virus di quello che poi è successo su scala planetaria con mutui e prodotti tossici, ma restiamo sul tema. Alla fine il gruppo Parmalat ha mandato in fumo titoli per 7 miliardi di euro in mano a circa 100.000 risparmiatori, oltre al danno, diciamo, industriale. Partiamo da Tanzi, che cosa ha detto oggi? Alla vigilia della prima sentenza per il crack Parmalat, che arriverà entro metà dicembre, è tornato in aula per la seconda volta e ha reso dichiarazioni spontanee per cercare di scrollarsi di dosso quell'immagine da primo regista del crack da 14 miliardi. Si è assunto le responsabilità morali del default che ha travolto migliaia di risparmiatori, ma ha detto: non sapevo che quei prodotti finanziari arrivassero direttamente nelle tasche dei privati. Sentiamo. Quel che voglio affermare davanti alla mia coscienza è che mai ho ideato, mai ho avuto la consapevolezza che potesse nascere quella che è stata definita la grande truffa in danno dei risparmiatori. Mai ho immaginato che strumenti finanziari riservati esclusivamente agli operatori specializzati, in quanti privi delle dovute garanzie previste per l'offerta al retail, potessero in maniera capillare finire nelle tasche di tanti privati, con una diffusione a mio giudizio imprevedibile ed immaginabile da chiunque, al di fuori dei soggetti che avevano il potere di negoziare tali titoli. E ritengo sommessamente di non errare nell'affermare che nessuno, prima dell'indagine della magistratura, si fosse reso conto di tale fenomeno. Se la prima volta le sue dichiarazioni erano state soprattutto delle scuse per un sogno infranto, per dirla con le sue stesse parole, stavolta il suo intervento è stato in particolar modo un j'accuse contro le banche. In particolare si è soffermato sui rapporti con la Bank of America, imputata in altro procedimento. L'ex patron di Collecchio, retrodata già al 94-95, il momento in cui, a suo dire, chi finanziava Parmalat poteva avere dubbi sulle sue reali condizioni patrimoniali. Comunque Tanzi ha voluto voluto assicurare che tutti i suoi beni sono già a disposizione per i risarcimenti dei risparmiatori. Non vi erano, né vi sono capitali che avrei dovuto movimentare e occultare. Non esiste un tesoro di Callisto Tanzi. Tutto quanto era nelle mie disponibilità è stato messo a disposizione della procedura in favore di chi deve essere risarcito. Tornando ai fatti del processo, le difficoltà da ottenere dagli istituti di credito finanziamenti diretti per Parmalat si manifestò già a distanza di 3 anni dalla quotazione in borsa, proprio a causa della situazione di cui sopra venne effettuata nel 1993-94 la prima delle operazioni strutturate, un complicato prestito organizzato da Citibank e Banca di Roma denominato Operazione Sirius. Oggi sono giunto al convincimento, e ovviamente una mia personale deduzione, che già a decorrere da quegli anni, siamo nel 94-95, chi finanziasse, o meglio facesse ottenere finanziamenti a Parmalat dal mercato, potesse avere forti dubbi sulle reali condizioni patrimoniali e finanziarie della Parmalat. Chi ha introdotto Parmalat nel mondo bond è stata la CESI, in persona del suo responsabile in Italia. Ossia Imbert. Allora, Raffaella Calandra, adesso una pausa, che, ossia c'è il nostro GR, poi l'ultimo pezzo, l'accusa al mondo della politica, ai pagamenti fatti ai politici, accusa mossa sempre da Callisto Tanzi, e cerchiamo anche di capire, per chiudere, quale sia la linea difensiva che ha preso Tanzi, ossia dire che lui è stato fuorviato dai consigli che gli hanno dato le banche, in primo luogo la Chase e Manhattan, insomma, che lui è stato, anche lui è stato, tra virgolette, raggirato, portato a credere in alcuni strumenti non capendo cosa poi sarebbe successo. Un po' comodo, ma ne parliamo dopo. Invece un paio di risposte rapidissime. Chi dice: perché non parlate mai della decrescita, le teorie di Latouche? L'abbiamo avuto anche ospite, ne abbiamo parlato, sarebbe troppo lungo adesso aprire il capitolo di quale indicatore utilizzare per la crescita economica che non sia il PIL. Vi dico che in teoria è bellissimo, nella pratica ci sono molti dubbi. Altri di voi dicono, insomma, siete voi che date notizie scusatemi, sempre negative. E sì, è vero, in realtà i dati statistici sono tutti positivi, quello che sentiamo sul territorio è tutto positivo, sono i giornalisti che creano la crisi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento dedicato a Callisto Tanzi e alle sue dichiarazioni spontanee oggi, questa mattina, al Tribunale di Milano, dopo aver sentito che Callisto Tanzi in sostanza dice: le banche mi hanno tratto in inganno, hanno organizzato loro tutti questi strumenti a partire dalle obbligazioni, a partire da Chase Manhattan. Raffaella Calandra, che ha seguito per noi la deposizione spontanea questa mattina a Palazzo Giustizia, Tanzi ha parlato anche dei rapporti con la politica, chiamiamoli rapporti, dai. Sì, nel quadro, per dare un segnale di collaborazione, ha detto, è tornato su quella che la procura aveva definito la sua protezione stellare, ribadendo cioè di aver sostenuto finanziariamente i partiti. Sentiamo come. È stato ritenuto che io fossi stato reticente anche nel descrivere i reali contorni di quella che è stata definita la protezione stellare di cui mi avvantaggiavo i miei rapporti con il mondo politico. Certamente c'è stata da parte mia un'intensa attività di sostegno alle attività svolte dagli uomini politici e dai partiti politici, sia in Italia che all'estero. Alcuni finanziamenti costituivano una vera e propria mia esigenza di contributo alle idee. Altre si concretizzavano in attività di lobbying e quindi rivolta al sostegno della Parmalat. Ho fornito inizialmente alla Procura di Milano un vasto quadro. Di certo non ho potuto fornire documenti o ricevute attestanti i contributi versati, non ve ne erano. Ho anche indicato chi ha operato materialmente per mio conto provvedendo ai versamenti del denaro in contanti o a finanziare con altre modalità differenti dal contributo in contanti. Quel che voglio sottolineare è che, per mia conoscenza ed esperienza diretta, non esiste alcun uomo politico, almeno fra quelli che io conosca, che possa avere il potere di indurre un banchiere a deliberare quantomeno uno soltanto degli importi finanziari da Parmalat o di indurre un banchiere a divenire lead manager, e cioè il garante del collegamento di un bond sul mercato senza che l'istituto di credito ne tragga un lucro più che apprezzabile. Ho invece una personale esperienza differente, quella di un banchiere che possa invogliare un imprenditore a finanziare qualcuno. E quindi Raffaella Calandra, per concludere, per capire la linea difensiva di Calito Tanzi, lui dice: attenzione, non mi risulta che la politica possa obbligare un banchiere a far collocare certi prodotti alla clientela, mi risulta al contrario, cioè che un banchiere possa in qualche modo chiedere a un imprenditore di fare diversamente la politica. Ma al di là di questo, la linea di fondo a cui noi stiamo assistendo qual è? Cioè, Tanzi descrive come una, passatemi il termine, verginella, naif, che le banche gli hanno iniziato a piazzare e a collocare delle operazioni finanziarie per fare debito che poi giravano alla clientela senza che lui avesse mai capito in realtà cosa c'era dietro. Ho capito bene o un po' semplificato? Sì, Tanzi si è assunto la responsabilità morale di quanto è successo, ma anche oggi in aula ha detto di essere stato ingannato come in un gioco di specchi sull'effettiva situazione della Parmalat, per cui la loro linea difensiva, la linea difensiva di Tanzi, per cui, per il quale ricordiamo la procura ha chiesto ben 13 anni di reclusione, passa attraverso un'accusa verso i banchieri, passa attraverso una domanda che uno dei legali dell'ex patron di Collecchio, Giampiero Biancolella, ha voluto ripetere in aula. Possibile che quattro ragionieri di Collecchio, ha detto, potessero da soli creare un buco da 14 miliardi? Dunque la difesa passa attraverso il contrattacco verso le banche per cercare di ridurre il più possibile il ruolo dell'ex leader, appunto, della Parmalat. Staremo a vedere, entro metà dicembre dovrebbe arrivare la sentenza, quale sarà la valutazione dei giudici. Sì, vuol dire, è un periodo in cui le banche sono nel mirino, e anche a livello corretto, parlo delle banche mondiali. Dopodiché vedremo se convincerà i giudici a dire che lui non aveva capito che trappolone complessivo in 10 anni le banche avessero organizzato. Su questo, insomma, non sta certo noi dire nulla. Grazie a Raffaella Calandra. €80 miliardi, questo vale il piano annunciato dal governo, dal ministro Tremonti, dal presidente del Consiglio Berlusconi, il piano per fronteggiare le conseguenze della crisi economica. Che cosa capiterà? Mercoledì ci sarà una riunione preparatoria del Precipe, ossia il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che si riunirà venerdì e dovrebbe sbloccare €16 miliardi da investire in infrastrutture. E poi la settimana prossima dovrebbe essere varato il provvedimento, il decreto, con i provvedimenti sia a sostegno delle banche che delle imprese che delle famiglie. Vediamo di capire da dove arrivino questi €80 miliardi. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, se ho ben capito, €40 miliardi arriveranno da un migliore utilizzo dei fondi strutturali europei per le aree svantaggiate, già stanziati per i prossimi 3 anni. Quindi non sono nuovi soldi, ma sono soldi meglio utilizzati. €16 miliardi arriveranno dallo sblocco, di questo stiamo parlando, dei fondi CIP per le infrastrutture, anche questi miliardi già stanziati ma bloccati. €10 miliardi da investimenti della società Autostrade per l'Italia, a cui verrà chiesto di introdurre un meccanismo che leghi il pedaggio agli investimenti effettivamente realizzati, e poi €14 miliardi di altri interventi a sostegno di imprese e famiglie, aiuti alle banche. Quali sono nuovi come soldi? Allora, i soldi nuovi sicuramente sono i 3-4 miliardi che si annunciano a beneficio, diciamo, delle imprese e delle famiglie. Il resto dovrebbero essere interventi per il sistema bancario, per rafforzare il patrimonio del sistema bancario, con modalità per il prestito, i Tremonti Bond si stanno definendo, le obbligazioni perpetue credo che siano, per rafforzare appunto il patrimonio delle banche, ma con modalità ancora da definire. L'obiettivo ovviamente è quello di far sì che, diciamo, la crisi di liquidità che sta investendo in particolare le imprese per il restringimento, la contrazione del credito, abbia in qualche modo fine. A questo obiettivo ovviamente mirano anche gli interventi fiscali in senso stretto. Per la parte fiscale si ragiona in prevalenza sulla riduzione dei versamenti IRPEF e IRES di fine novembre, che quest'anno, lo ricordo, il versamento scatterà il primo di dicembre, poiché il 30 novembre cade di domenica. E quello verrebbe rinviato al 2009, l'acconto IRPEF, diciamo, del primo più di dicembre. Altro non verrebbe rinviato al 2009, verrebbe, diciamo, diminuita la percentuale dell'acconto IRPEF e IRES da versare quest'anno. Per capirci, l'acconto IRPEF da versare quest'anno è pari al 99% e l'IRES al 100%. Se si decidesse, come sembra, di ridurre di qualche diciamo percentuale, 3 punti, questo acconto a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, vi sarebbe un beneficio immediato, ovviamente, perché entrerebbe più liquidità. Ovviamente si tratta però di una misura che è puramente, diciamo, di anticipo, perché poi comunque a giugno sia le imprese che in questo caso anche le famiglie dovrebbero comunque versare l'intero importo. È ovvio che in questo caso si tratta di una misura temporanea. Cioè far slittare in là un pagamento, posticipare un pagamento, in questo caso dovuto allo Stato e all'Agenzia delle Entrate. Poi abbiamo letto anche di una riduzione IRAP attraverso detrazione del costo del lavoro e del pagamento dell'IVA, questo vale per le imprese al momento dell'incasso e non al momento dell'emissione della fattura. Sì, questa misura sull'IRAP in particolare non è ancora ben chiaro come il governo intenda procedere, perché l'intera operazione costerebbe molto, costerebbe 10 miliardi. In sintesi si tratta di prevedere in qualche modo una parziale, direi io, perché l'intera deducibilità costerebbe troppo, dell'IRAP ai fini delle imposte dirette IRAP e IRES. Con l'attuale regime non è possibile dedurli. Il problema è che da più di un anno pende presso la Corte di Costituzionale un giudizio di costituzionalità proprio con riferimento a questa norma istitutiva dell'IRAP che non consente la deducibilità. Allora, se il governo intervenisse in questo frangente col decreto, potrebbe in qualche modo anche venire incontro agli effetti che comunque sarebbero negativi per i conti pubblici laddove la Corte Costituzionale decidesse per l'incostituzionalità. E questo è un punto. Per quanto riguarda l'IVA, l'IVA è una misura che era già presente nel programma di governo, è già stato annunciato più volte da Berlusconi. Anche qui però è uno slittamento, cioè si sposta l'obbligo di versamento dal momento dell'emissione della fattura a quello dell'incasso effettivo. È un beneficio, ovviamente, ma anch'esso temporaneo. Allora, importante questo aspetto, cioè sostanzialmente per quello che abbiamo visto, al di là dei 40 miliardi di fondi europei già destinati da utilizzare meglio, e lì poi bisognerà vedere come verranno utilizzati meglio, per ora la parte fiscale dei provvedimenti si basa soprattutto su un posticipo, fare slittare i pagamenti, oltre ai 3-4 miliardi che tu dicevi. Esclusa invece la possibilità di detassare la tredicesima, costerebbe troppo, Dino, tra i 6 e 7 miliardi, se ho ben capito. Sì, purtroppo così, costerebbe troppo. E invece proroga, si sta pensando a una proroga della detassazione degli straordinari e dei premi di produzione, invece confermato l'aumento di risorse per la cassa integrazione, che immaginiamo sarà più alta nel 2009 di quanto non sia stata negli anni scorsi. Allora, c'è chi ci scrive, ma insomma... Dino, mi manca solo un passaggio, scusami, ho dimenticato Autostrade per l'Italia. Cioè 10 miliardi sono tanti da Autostrade per l'Italia. Sì, sono tanti, ma qui appunto bisogna vedere come esattamente verranno attivati. La strada che sembra aver deciso il governo è quella di dare comunque il via libera ai gestori autostradali dell'aumento delle tariffe in cambio di un effettivo impegno proprio sugli investimenti. Quindi si tratterebbe in questo caso in qualche modo di un do ut des. Ecco, a me non entusiasmo, ve lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, la polemica tra l'articolo di Francesco Giavazzi ieri su Corriere della Sera. Diceva no, occorre abbassare le tasse al lavoro dipendente, salariato, pensionato in primo luogo, perché così fai ripartire la domanda interna e i consumi, gli investimenti in infrastrutture invece ci mettono almeno un paio d'anni a attivarsi. Sì, faccio solo notare che c'è chi obietta, attenzione, se tu abbassi semplicemente le tasse hai meno soldi in cassa e non è detto che il cittadino vada necessariamente a spendere i soldi che ottiene in più, può anche metterli in banca, può anche tenerli. mentre quando tu vai a fare un investimento infrastrutturale comunque migliori la competitività del paese, cioè fai un investimento anche nel medio e lungo termine, non è una tantum. C'è un punto, e con questo vorrei chiudere, alcuni ascoltatori scrivono: ma insomma, perché tutta questa prudenza? Tanto si è capito che in Europa il tetto del deficit al 3% verrà superato, insomma è già previsto dal trattato di Maastricht che in casi di emergenza tu possa andare oltre. A me sembra che Tremonti, più che temere il giudizio della Commissione Europea, tema il giudizio dei mercati su quanto noi paghiamo, dobbiamo dare di interessi per farci finanziare i bot. La differenza col Bund tedesco è aumentata a livelli incredibili. Esattamente questo è il problema. Non a caso in questi giorni Tremonti ricorda molto Ciampi negli anni in cui era il ministro del Tesoro e andava in giro per convincere, diciamo, i nostri interlocutori europei, che poco si fidavano della solidità del percorso di risanamento dei conti pubblici, andava in giro col grafico in cui appunto si verificava, si attestava lo scostamento tra i Bund tedeschi e i BTP del Tesoro italiano. Ecco, in quel caso lì Ciampi lo utilizzava per dimostrare che la forbice andava lentamente restringendosi, e questo era, come dire, il premio di credibilità che i mercati stavano assegnando al percorso di risanamento. E in questo caso Tremonti si trova a dover affrontare il problema opposto, cioè la forbice, lo spread, come si dice in termini tecnici, si sta allargando, e dunque la prudenza è obbligatoria, perché è vero che noi potremmo beneficiare di qualche decimale di deficit in più, ma poi i mercati molto probabilmente... Esattamente. Allora, il punto è molto semplice. Ogni volta che aumenta questa differenza vuol dire che lo Stato, per farsi ripagare il debito che ha, ossia emettere botte, deve dare un rendimento più alto, altrimenti uno preferisce comprare un bot tedesco, un Bund, perché è ritenuto più affidabile, più serio, che non un bot italiano. E ogni volta che noi aumentiamo anche di un punto percentuale quanto rendono i nostri bot, paghiamo cifre stellari, perché attenzione che praticamente ogni 0,25% in più a noi costa 3 miliardi di oneri aggiuntivi, per cui alla fine arriviamo a 12 miliardi da dover offrire in più come interessi per farci finanziare il debito. Ecco perché non si può indebolire la credibilità del debito italiano, non è un problema politico con l'Europa. Grazie a Dino Pesole, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia.